GR Sport. Buongiorno a tutti da Carlo Genta. Ci sarà anche la Sampdoria, spettatrice interessata ai sorteggi del prossimo turno delle Coppe Europee, in programma oggi a mezzogiorno a Nyon. Come il Milan e l'Udinese, pur battuta ieri 2-0 dagli olandesi del NEC, anche la Samp va ai sedicesimi di UEFA dopo una vittoria soffertissima sul Siviglia con gol del difensore argentino Bottinelli al 29esimo della ripresa. Dopo l'impresa parla con la 7 Capitan Cassano. Loro sulla carta erano molto più bravi e si è visto anche stasera, però noi siamo andati con il cuore oltre l'ostacolo. Io penso che questa squadra qua, con tutti i sacrifici che sta facendo, vale domani da mettere 10 a tutti quanti. Stiamo scrivendo la storia, questa è la verità. Dopo 16 anni arrivare così lontano in una Coppa Europea è un motivo d'orgoglio. Questa squadra va veramente elogiata. Io non ho mai corso così tanto in vita mia. Stasera, in una partita difficilissima, avevo crampi da tutte le parti, perché proprio l'istinto mi diceva di andare a correre dietro ogni palla per raggiungere un traguardo che ci porta nella storia. Oggi dunque i sorteggi per la Coppa UEFA, ma anche e soprattutto per la Champions League, con l'Inter che corre tra le nostre tre, ricordiamoci sono anche Juventus e Roma, ma l'Inter corre i rischi maggiori e potrebbe uscire per i nerazzurri un accoppiamento con Liverpool, Manchester United o Barcellona. Lasciamo il calcio per il basket di Eurolega. Serve un supplementare alla lottomatica Roma per battere l'Olimpia Lubiana 74-69 e conquistare nell'ottava giornata la vittoria che garantisce ai romani il passaggio alle top 16 con due turni di anticipo. Non aveva più possibilità invece Avellino, che è stata battuta 72-68 a Malaga. Un fine settimana di grande sci sulle nevi italiane sta per cominciare, sentiamo. Con il Super G di oggi scatta la 4 giorni dolomitica della Coppa del Mondo di sci maschile, che si conclude lunedì con il recupero dello slalom cancellato domenica scorsa in Val d'Isère. In Gardena e Badia gli azzurri puntano alla seconda vittoria stagionale dopo il successo ottenuto a Lake Louise da Peter Phil. Proprio il capitano dell'Italjet, che si presenta con il secondo posto nella classifica di discesa e parte con il numero 30, è tra i più attesi. Lui e compagni di squadra Ineroffer, Helle e Staudacher sono chiamati interrompere 8 anni di digiuno nelle gare veloci italiane. L'ultimo trionfo azzurro sulle piste di casa è merito di Christian Ghedina, che proprio sulla Sass Launch fece sua la prima delle due discese del 2000. Kusch, Miller e Valcofer, capaci già di vincere il supergigante della Gardena, sono tra gli avversari da battere nella prova odierna. L'obiettivo di tutti è fermare la fuga del ritrovato Svindal, leader di Coppa. Maier, numero 1 di specialità, è invece in corsa per il terzo podio consecutivo. Dario Puppo, GR24, il Sole 24 Ore. Grande box stasera a Milano al Palalido con Silvio Branco e Paolo Vidoz che combattono per il titolo. Vidoz affronterà l'inglese Skelton per il vacante titolo europeo dei pesi massimi. Lo sentiamo al microfono di Dario Ricci. Ho avuto tanti amici che mi hanno dato una mano per questa preparazione che è stata lunga. Il mio peso è anche abbastanza bene, sono attorno ai 110, quindi era da tempo che non ero così tirato. L'avversario è forse il più duro che c'è in giro a livello europeo, però ormai si può dire che questa sfida si può intitolare o dentro o fuori, perché anche siamo due atleti maturi come età, abbiamo già la nostra esperienza e per arrivare a certi livelli, a un certo tipo di incontri o di palcoscenico, questo sarà, diciamo, la prova della verità. Ed è tutto per questa edizione di GR Sport, di nuovo buona giornata.